qualcuno sta marrete. Na cupulella cavizie raizzate, passa scampagnanna padulete, uomo nuova papa per far guardare. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta me chi lo fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma sono lì per cammel, chi te lì dalla borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma se nata in Italia, senta me, non c'è sta niente a fa. O che napulitan, tu vuoi fare l'american, tu vuoi fare l'american. Come ti può capire chi te vo bene? Se tu la parla mezza americano, quando si va l'amore sotto la luna, come ti vieni in capo di I love you? Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta me chi te fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma son lì per camel, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma sei nato in Italia, sientami, non c'è sta niente a fa, o che napulitan, tu vuoi fare l'american, tu vuoi fare l'american. Tu ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma sono lì per camel, chi te lì dalla borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma se nata in Italia, sientame, non c'è sta niente va, o che napulitan. Tu vuoi fare l'american, tu vuoi fare l'american. Whisky and soda, rock and roll, whisky and soda, rock and roll, whisky and soda, rock and roll, whisky and soda, rock and roll, whisky and soda, rock and roll, whisky and soda, rock and roll, whisky and soda, rock and roll. Tu vuoi fare l'american, tu vuoi fare l'american.